Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Per me il problema è se la pillola dia o meno effetti medici collaterali tali per cui ci sia bisogno di una prescrizione o di un controllo medico. Ma comunque, qual è lo scandalo morale della pillola del giorno dopo o della pillola anticoncezionale? Agli uomini, poverini, nessuno fa la morale se comprano il Viagra in farmacia oppure online, con prescrizione o senza. Insomma, la sessualità precoce delle ragazzine è male, ma la libido artificiale degli anzianotti è forse un bene? Sabina. Trasmissione molto interessante quella di ieri mattina sulla liberalizzazione della pillola del giorno dopo. Soprattutto l'intervento di quella femminista incavolata che mi ha fatto quasi vergognare di essere in qualcosa simile a lei, ovvero donna. A parte gli scherzi, grazie per la vostra battaglia di civiltà laica e gioia, soprattutto gioia, contro la tristezza dell'aborto e del femminismo da strapazzo. Flaminia. Sono una donna di 30 anni. Quando il mio primo figlio aveva 2 anni, io e mio marito abbiamo avuto un incidente con il profilattico. Ho preso la pillola del giorno dopo entro i termini previsti e 9 mesi dopo è nato il nostro secondo figlio. Ma i maschietti, dove sono in tutta questa storia? Perché non si parla di paternità responsabile, oltre che di maternità responsabile? Elisa. Egregio direttore, recentemente ho letto che il ministro Sacconi ha definito come padri della moneta unica Andreotti e Di Michelis. Ma Andreotti fu il presidente del Consiglio nel 90-92 e non fece nulla per far imboccare all'Italia la strada per il rispetto dei parametri di Maastricht. Costrinse così a settembre 92 il governo Amato a varare la manovra economica, lacrime, sangue e svalutazione della lira, che consentì all'Italia di fermarsi sul baratro verso il quale stava precipitando. Mi auguro che venga il tempo dell'onestà intellettuale e che si indichi in Romano Prodi e il suo primo governo la vera madre dell'entrata dell'Italia nell'euro. Proprio adesso che viene percepito dalla maggioranza degli italiani che quello fu il fatto politico-economico più importante dal dopoguerra. Se volessimo indicare un padre putativo, dovremmo andare indietro fino a Luigi Einaudi, che all'inizio del Novecento già scriveva e argomentava sulla necessità di un'Europa unita e di una moneta unica. Per fortuna che nel 1996 al governo andò Prodi, se no come avremmo fatto a superare le prove successive? Bolla speculativa fine anni 90, Twin Towers, mutui subprime e dintorni. Agostino. Bello l'articolo su Repubblica di ieri, scritto dal fotografo di Noemi. Peccato che in quell'articolo si parli solo con dei ma, forse, potrebbe, non ricordo, eccetera. Per cui neanche il più inferocito dei contestatori berlusconiani potrebbe crederci. Cari amici della sinistra, vi è andata male con il divorzio, perché loro divorzieranno, ma saranno affari loro. Se credevate di mandarlo a casa con l'inutile aiuto di Franceschini, vi siete proprio sbagliati. Eravate al governo e non avete saputo starci, ora basta. Non dovete pretendere che anche questi siano la vostra fotocopia. Pensate piuttosto alla campagna elettorale che ci sarà fra 4 anni. Spero che la signora Veronica si renda conto in quale bassezza è caduta. Lei non faceva il mestiere di santa prima di incontrare Silvio e sapeva che a suo marito le donne sono sempre piaciute, non è un segreto. Ma come si fa a stare al gioco di chi vuol far credere che il presidente del Consiglio sia un pedofilo? Tutto si abbatterà come un boomerang su chi ha montato tutta questa storia. La stessa Concita De Gregorio, nella trasmissione di giovedì scorso di Anno Zero, ha dichiarato: Berlusconi stava prendendo troppi consensi e la sinistra... E lì Santoro, quando ha capito che si stava infilando in un circolo vizioso, le ha tolto la parola. Ma il significato è chiaro. Qualcosa dovevamo inventarci per fermare il consenso al presidente del Consiglio. Isa. Caro direttore, in America è arrivato Obama. È arrivato dopo decine di anni di sputi in faccia agli afroamericani e alle altre etnie, da parte del popolo americano, che una vera etnia non è, visto che tutti sanno essere un promiscuo di extracomunitari. Il vero popolo americano è stato sterminato o confinato e tenuto schiacciato con l'alcol, stessa cosa fatta al proprio popolo dagli orchi cattivi russi. Crede che anche noi qui in Italia dovremmo passare attraverso un grave razzismo per poi rinascere tolleranti? Non crede che senza tanto falso allarmismo, ma semplicemente con un po' più di apertura e conoscenza del diverso, il popolo italiano sarebbe abbastanza intelligente per cambiare atteggiamento e vivere molto meglio? Un esempio. Fino a pochi anni fa i malati mentali, i down, eccetera, erano rinchiusi e considerati pericolosi per la società. Poi è venuta la legge Basaglia. Hanno chiuso i manicomi, che si erano trasformati ormai in muri di ignoranza, e in poco tempo tutto è cambiato. Grazie alla nascita di associazioni, all'apporto dato dalle famiglie che dovevano convivere con i diversi, abbiamo imparato a conoscerli, amarli e presentarli agli altri in una luce nuova. Certo, sono consapevole che si tratta di due cose diverse, ma il comune denominatore rimane l'ignoranza e la malinformazione. Sarò ripetitivo, ma a mantenere il popolo nell'ignoranza ci hanno già provato. È un tornaconto per pochi e prima o poi ci si sveglia arretrati e ignoranti. Rudy. La mia considerazione è semplice. Se questi poveri cristi pagano 1.000-2.000 euro ai vari traghettatori, perché non si comprano un biglietto aereo e poi, una volta arrivati qui, non richiedono l'asilo politico? Gianni. Ma ci rendiamo conto che in Italia l'immigrazione avviene prima di tutto dagli aeroporti, attraverso i visti turistici? Parlo per situazioni conosciute. I barconi a Lampedusa sono solo il lato più folcloristico e minore del problema. Luca d'Amsterdam, un immigrato italiano in Olanda. Io abito a Milano e se dovessero istituire un vagone della metropolitana per i milanesi, è sicuro che non ci salirò. Da anni siamo oramai abituati a viaggiare con a fianco persone di varia origine ed è impossibile poter pensare di escluderli dalla vita quotidiana. Oltretutto, saremmo noi milanesi ad essere discriminati, in quanto di tutte le carrozze della metropolitana ce ne vorrebbero 4 per gli extracomunitari e forse una per i vecchi abitanti. Loro sono in maggioranza a viaggiare con i mezzi pubblici rispetto a noi e sarebbe così stupido e imbarazzante isolarci per distinguerci. Forse anni fa era facile vedere gruppetti di slavi o albanesi che con strafottenza salivano sui mezzi pubblici e si sedevano senza pagare il biglietto, comunicando fra loro con toni alti e senza il minimo rispetto degli altri. Ma ora io vedo persone educate, mamme che salgono con passeggini aiutate da noi italiani. Ormai sono milanesi pure loro. È questo che non abbiamo ancora metabolizzato, forse. Per quanto riguarda invece il dibattito sull'allontanamento dei barconi dei clandestini, la risposta l'ha data ai giornalisti un immigrato che fa parte dei 300 che a Milano da tempo protestano ogni settimana perché vogliono la casa, sfilando con striscioni con la parola diritti scritta in rosso e sottolineata 2 volte. «Cosa ci fate venire a fare?» ha detto, «se poi non ci date i nostri diritti». Ha ragione, ma hanno ragione anche tutti gli italiani che, pur essendo italiani da sempre, la casa non ce l'hanno, o i precari che non possono comprarsela e neppure prenderla in affitto coi prezzi che ci sono. Promettiamo loro diritti che poi non siamo neppure lontanamente in grado di garantire. E allora, che senso ha ricevere per bontà migliaia di persone ogni giorno, che poi non possiamo sistemare e che, istruiti a dovere da una certa parte politica, sono più bravi a protestare dei cittadini stessi che lottano ogni giorno per farcela? Sarebbe bello poter aiutare tutti, ma siamo in grado di farlo? Su questo tema, il ruolo della sinistra è sempre solo quello di criticare. Se il governo riesce nell'azione di respingere i barconi stracarichi, come da sempre si era sperato di poter fare, viene additato dall'opposizione come disumano. Se non riuscisse, viceversa, a frenare gli sbarchi, verrebbe criticato in quanto incapace di rispettare gli accordi con la Libia. È così che funziona, è così che fanno opposizione, facendo il bastian contrario. Franceschini dice che la maggioranza cavalca l'onda della Lega per prendere più voti, riconoscendo allora che la maggior parte degli italiani è d'accordo con certe scelte. Come al solito, quelli del centrodestra sono i cattivi che non rispettano i diritti umani e quelli del centrosinistra sono i buoni che non si tirano indietro nell'aiutare i popoli che si affacciano alle nostre porte. Ma non c'è anche una buona dose di incoscienza nel dire che dovremmo accettare tutti coloro che arrivano? Abbiamo presente la vastità dell'Africa rispetto al territorio italiano? Come potremmo, sulla spinta della solidarietà, dare diritti a tutti? Mi spaventa molto questo atteggiamento, che vuol sembrare responsabile, ma che alla fine illude chi cerca di arrivare qui, facendo sperare in un futuro solo bello da sognare. Giulia. Sì. Sono una piccola imprenditrice che quasi ogni anno si trova ad affrontare non la crisi della propria società, ma la mancanza di solvenza da parte dei clienti, i quali chiudono l'azienda e riaprono con nomi diversi, lasciando i fornitori senza un euro. Loro in compenso ne hanno tanti, spariscono senza lasciare traccia o semplicemente non pagano. Tutti gli avvocati si limitano a proporci i decreti ingiuntivi. In passato, però, i decreti ci hanno fatto recuperare delle cifre ridicole rispetto al credito e solo dopo parecchi anni di attesa. Siamo comunque costretti ad agire con i decreti, almeno per evitare di dover pagare le tasse sulle perdite. Possibile che in questo benedetto paese siano sempre e costantemente garantiti solo i furbi? Ci sono alternative ai decreti ingiuntivi? Io credo che, come me, ci siano tanti altri titolari di piccole aziende beffate. Possibile che nessuno dei vari governi riesca mai a mettere un po' di ordine alla nostra giustizia? Ma come si comportano all'estero con le piccole aziende? Patrizia. Caro direttore, negli ultimi tempi stanno crescendo le voci sulla crisi economica, in particolare sul fatto che questa crisi, pur gravissima, possa essere ormai considerata superata. Ma mentre si parla di ripresa ormai vicina, continuano ad arrivare dati sulla crescita della disoccupazione, sulla flessione della produzione industriale, sull'aumento dei deficit pubblici. A chi dobbiamo credere? Vincenzo. Caro Vincenzo, lei ha certamente ragione nel mostrarsi perplesso di fronte alle dichiarazioni eccessivamente ottimistiche sull'andamento dell'economia, ma dovrebbe dimostrarsi altrettanto perplesso di fronte a quanti si mostrano eccessivamente pessimisti. In realtà, l'economia mondiale si trova a metà del guado, sta affrontando una crisi senza precedenti in un mondo globale come l'attuale e le terapie da adottare non sono né facili né sicure. Quello che è certo è che il fattore fiducia ha avuto una parte fondamentale nel provocare la crisi e potrà avere una parte altrettanto importante per fare uscire l'economia dallo stallo in cui si trova. Ma la fiducia è come il coraggio, uno non se lo può dare. I governi e le autorità monetarie si stanno comunque muovendo con la necessaria sensibilità, al contrario di quanto avvenne negli anni 30, quando le misure per contrastare quello che allora venne chiamata la Grande Depressione ebbero l'effetto di aggravare i problemi. Adesso ci sono le condizioni per sperare in una ripresa dell'economia tra l'autunno di quest'anno e la primavera dell'anno prossimo. Nel frattempo dovremo abituarci ancora per qualche mese a registrare dati anche fortemente negativi. Ricordiamoci sempre che si tratta di rilevazioni che riguardano il passato. Il futuro sarà certamente migliore e non solo perché è nelle nostre mani. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.